Italia in controluce. Buongiorno a tutti su Radio 24 in conduzione Daniele Biacchesi. Oggi è il 9 di ottobre, tornano le tangenti a Milano, gare truccate, pensate, per assegnare gli appalti della gestione delle case vacanze per bambini e anziani, finanziamenti pubblici a progetti sospetti, un sistema gestito da una cerchia di persone. Questo emerge leggendo attentamente l'ordinanza di custodia cautelare emesse dalla magistratura milanese nei confronti di un funzionario del Comune di Milano in fiducia della Giunta Moratti e del segretario dell'Unione Cechi. Ma l'inchiesta dove si potrà allargare? Perché ci sono anche nelle intercettazioni, è finito anche il prefetto di Milano Lombardi, tra gli altri. E voi cosa ne pensate? Tornano effettivamente le tangenti a Milano? Questo è soltanto un episodio. 349-238-6666 il numero per i vostri sms. In studio con me Cristina Carpinelli, buongiorno. Buongiorno Daniele, sì, come dicevi tu, stiamo parlando di una cerchia e questa definizione se la sono data alle stesse persone che ieri sono state arrestate. Una cerchia è una definizione appropriata perché di fatto si parla di una rete di conoscenze, di persone fidate che all'occorrenza si aiutavano con scambi di favore, quindi un sistema quasi al limite del mafioso, persone che però appartenevano al mondo della politica, dell'imprenditoria milanese, una storia che è stata portata a galla dall'inchiesta della Procura di Milano su presunte irregolarità degli appalti per la gestione di case vacanza del comune e su finanziamenti sospetti a progetti per tutelare l'infanzia, sospetti che portano quasi a pensare che questi progetti siano stati progetti fantasma e per la quale ieri appunto sono state arrestate 4 persone. Come dicevi tu Daniele, la cosa grave è che in questa cosiddetta cerchia ci sarebbe anche il prefetto di Milano Gian Valerio Lombardi. Tra i fatti dell'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto di Milano Alfredo Robledo emergono anche cene a 5 stelle per una trentina di ospiti, cene a base di sushi costate 13.000 euro pagate con i nostri soldi, con i soldi pubblici, soldi che dovevano servire alla promozione di progetti di diritti all'infanzia. Per queste e altre ragioni sono finiti in carcere Patrizio Mercadante, dirigente dell'assessorato alla famiglia durante la giunta di Letizia Moratti e considerato uomo di fiducia dell'ex assessore Moioli. Poi c'è anche Antonio Picheca, segretario generale dell'Istituto dei Ciechi di Milano, commissario straordinario della Fondazione Pini, e Dario Zambelli, imprenditore titolare di 2 società di viaggi di Bergamo. Agli arresti domiciliari invece è finita Giulia Pezzoli. Le accuse riguardano gli anni tra il 2010 e il 2011 e sono corruzione, turbativa d'asta, truffa e falso. Una cerchia, dicevamo, che si aiutava di fatto a vivere bene, mettiamola così. Ad esempio, tra gli scambi di favori, tra gli indagati c'era la possibilità di avere appartamenti in condomini di lusso in pieno centro a Milano a prezzi stracciati, immobili di proprietà dell'Istituto dei Ciechi, un istituto che veniva amministrato, come abbiamo detto, da questo signor Antonio Picheca. E tra coloro che Picheca avrebbe favorito dando loro case di lusso al centro di Milano risultano esserci le figlie della Moioli, ex assessore all'educazione nella precedente giunta, e le figlie di tale Carmela Madaffari, ex dirigente comunale della giunta Moratti, che qualcuno forse ricorderà era finita anche al centro di polemiche per le cosiddette consulenze d'oro. Insomma Daniele, appalti truccati, molti moltissimi favori per vivere una vita dorata, questo quanto emerge da questa inchiesta. Intanto vi do una notizia che è una sorta di breaking news, che il presidente della provincia di Milano Guido Podestà ha annunciato pochi minuti fa le sue dimissioni. Non sappiamo qual è il motivo preciso. Oggi alle 16 Podestà incontrerà i giornalisti per spiegare i motivi di questa sua decisione, ma che credo non c'entri nulla con quello di cui stiamo parlando. Come avete sentito dunque da Cristina Carpinelli, tra i vari favori elargiti da questa cosiddetta cerchia di politici c'erano gli alloggi di lusso. Erano appartamenti di proprietà dell'Unione Italiana Ciechi di Milano che avrebbero dovuto essere messi a disposizione dei non vedenti e che invece vennero dati in affitto, sempre secondo l'accusa, alle figlie dell'ex assessore all'educazione della precedente giunta, la Moioli, e alle figlie Carmela Madaffari, ex dirigente comunale della giunta Conte Amorati, finita anche al centro di polemiche per le cosiddette consulenze d'oro. Chi gestiva tutto era Antonio Pichecca, amministratore dell'Unione Cechi, oggi agli arresti. Il presidente dello stesso istituto, Rodolfo Mastro, al microfono della nostra Cristina Carpinelli, spiega di non aver mai notato delle irregolarità. L'Istituto di Cechi affitta il proprio patrimonio fino a 100 metri quadri a persone non vedenti con un canone affitto agevolato. L'altro patrimonio viene affittato così: se la casa è in ordine viene fatta all'asta pubblica, se invece la casa viene rilasciata in condizioni molto malorate, cioè che non ci permettono di fare l'asta pubblica perché gli interventi di messa a norma sono oltre i 30-40 mila euro, allora per queste case noi le offriamo alle persone che ci fanno la domanda al protocollo. Noi abbiamo un protocollo metodo pizzeria, quando uno fa la domanda e poi noi man mano le spulciamo. Ad esempio, lei viene da me e dice: io avrei bisogno una casa di 2-3 locali in centro e mi impegno a ristrutturare la mia spesa senza nulla chiedere all'istituto. Ecco, in questo caso noi le diamo a queste persone. Gli atti di assegnazione alle case sono in ordine. Vedi che c'è un'assegnazione a una delle figlie della Moglioli e poi c'è un'assegnazione... Anche posso dirti una cosa? La figlia della Moglioli ha preso la casa in asta pubblica. Ieri io ho fatto discussione con un tuo collega in cui lui diceva: ma scusi, lei ritiene giusto che una persona così faccia la partecipazione? Ma questa è una gara pubblica, e come abbiamo, perché impedire a... Non è venuto il dubbio che questa gara pubblica non fosse? No, ma perché era regolarissima, la facciamo anche sempre davanti al notaio noi. Quindi perché la Moglioli, la figlia della Moglioli ha avuto una casa che in realtà sarebbe dovuta andare a un non vedente? No! Perché è una casa di lusso. Senta, l'ultima domanda che le faccio. Prego. È 20 anni fianco a fianco con Pichecca, qualche dubbio le è venuto qualche volta o le è sempre sembrato una persona integerrima? Ma guarda, se mi fosse venuto il dubbio sarei intervenuto, io non ho mai avuto dubbi. E quando mai sono scomparse le tangenti a Milano e quando mai sono scomparse in Italia? Di che anno era il film di Sordi Tutti Dentro? Era Egidio che ha fatto il 349-238-6666 alla nostra domanda se secondo voi quello di cui state ascoltando è soltanto un episodio oppure stanno tornando veramente gli anni di Tangentopoli a Milano e non solo. Il metodo pizzeria, ma chi rende noto la lista, dice, i soliti noti ovviamente, un nostro ascoltatore, e qualcun altro ricorda che la stessa cosa succede anche a Roma, che un altro Fabrizio Cozzi, che non so da dove arriva, dice: non sono mai finite, il prossimo scandalo sono i bilanci dei sindacati, apre. Per questa vicenda provo indignazione, dice Corrado da Como, ha molto tempo che sono indignato, ma non dura per sempre l'indignazione. Credo che molte persone non si indignino più e subiscono ciò che succede in modo passivo, il peggio che possa succedere. E un altro ascoltatore dice che le tangenti sono tornate poco dopo Tangentopoli, giusto il tempo per dare alle cricche il modo di riorganizzarsi. Noi cittadini non mettiamo abbastanza il naso nelle cose pubbliche per vigilare. Insomma, tantissimi sono i vostri sms e noi abbiamo sentito, l'ha sentito Cristina Carpinelli, l'attuale vice sindaco e assessore dell'educazione del Comune di Milano, Maria Grazia Guida. È un episodio che sicuramente si richiama al passato, però che richiede una vigilanza attuale nel presente. È passata una subcultura che ha consentito in qualche modo di utilizzare in maniera assolutamente scorretta, in maniera anche delittuosa, quello che è il bene pubblico per interessi proprio particolari, personali. Questa cosa assolutamente non deve avvenire. Questo è avvenuto con la precedente amministrazione perché si richiamano atti e procedure di gara avviate nel 2010 per la cessione di alcune case vacanze dell'amministrazione comunale, quindi sotto la giunta Moratti, atti che noi dopo verifiche e indagini interne siamo riusciti in qualche modo a bloccare fino ad arrivare all'annullamento di quel provvedimento, perché dalle prime verifiche noi siamo arrivati a giugno del 2011, già a fine giugno, inizio luglio avevamo sentore che su alcuni atti le cose non erano completamente chiare, quindi abbiamo fatto un po' due cose. La prima è stata rinnovare completamente quella che era la struttura, diciamo, di responsabilità dirigenziale, la seconda è di andare a fondo nel capire e comprendere i fenomeni che ci trovavamo davanti e che ci risultavano poco chiari e poco comprensibili. Certo, e tra l'altro qui ci sono anche delle figure che, si è confermato, fa molta impressione che siano implicate in questa inchiesta. Una in particolare è quella del prefetto di Milano. Guardi, l'inchiesta è in corso, sinceramente questo crea delle ombre che speriamo vengano fugate, insomma non può esistere che rappresentanti della politica, delle amministrazioni o dello Stato vengano in qualche modo anche minimamente toccati da sospetti di non rappresentare la collettività tutta. Ecco. Questo è il racconto dall'Italia di cronaca, costume, spettacolo, politica, cultura. In studio vi ha parlato Daniele Biachesi, vi ricordo Italia in Controluce lo trovate su Facebook sotto forma di gruppo e di pagina, oppure su Twitter, oppure la nostra mail è controluce@radio24.it. A domani.